GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Bassa la partecipazione alla cerimonia del giorno della memoria alla Risiera di San Saba. Il contapersone, che limitava l'affluenza a 2.200 persone, ha sfiorato quota 400. Il rabbino e il presidente della comunità ebraica leggono i limiti di una cerimonia che è diventata, dicono, di maniera un timore che molti esprimono anche alla luce della scomparsa degli ultimi testimoni. Una valanga si è staccata sopra il rifugio Gilberti a quota 1900 metri circa. Si tratta di una zona frequentata da chi pratica lo sci alpinismo. Gli elicotteri del soccorso alpino hanno sorvolato l'area. Sono due sciatori sono rimasti coinvolti, ma sono riusciti a uscire da soli. Investimento mortale ieri sera per Tegada, sulla strada provinciale che porta a Lignano. La vittima, Gianfranco Milanese di Precenico, stava camminando sul bordo della strada per rientrare a casa in un tratto non illuminato ed è stato colpito da un'automobile guidata da un ventenne. Hanno tentato di rubargli 40.000 euro fingendosi carabinieri al telefono. È successo a un uomo di 68 anni che, insospettito dall'insistenza delle chiamate e dei messaggi, è andato di persona dai carabinieri di Feletto Umberto, che hanno sventato la truffa. Ieri controlli delle forze dell'ordine davanti ad alcune scuole superiori triestine con cani antidroga, ma anche per individuare eventuali oggetti atti a offendere, quali coltelli e tirapugni. I controlli hanno dato esito negativo, ma i ragazzi raccontano ai nostri microfoni che più di qualcuno ha subito minacce da coetanei. Il pluricampione ciclista Paolo Bettini diventa pilota delle Frecce per un giorno. Buongiorno da Dario Ronzoni e Nada Cioc. Il giorno della memoria a Trieste è iniziato con la deposizione di una corona d'alloro della Polizia di Stato alla lapide che ricorda la prigionia di Giovanni Palatucci all'interno del carcere del Coroneo. Quindi una marcia silenziosa a cura dell'Associazione Nazionale Deportati si è diretta verso la stazione centrale, da dove partivano i convogli per i campi di concentramento e di sterminio. Una corona è stata deposta dal comune alla lapide che ricorda la partenza dei convogli dal settembre del 1943 al febbraio del 1945. Alle 11 è iniziata la cerimonia nel cortile della Risiera di San Saba, dove si vedono ancora i resti del forno crematorio smantellato dai nazisti prima della liberazione della città. Alla Risiera di San Saba, la cerimonia del giorno della memoria, tante autorità e rappresentanti religiosi, ma manca il pubblico, meno del 10% della capienza del monumento, circa 200 persone. Ogni anno la cerimonia nell'unico campo di concentramento italiano dotato di forno crematorio è sempre meno partecipata, sono 25 anni che si celebra. Rav Alexander Meloni, rabbino di Trieste, nel suo discorso ha parlato di fallimento del giorno della memoria. Sì, è un fallimento perché il giorno della memoria è stato percepito alla fin fine come il ricordo per le vittime ebree e dunque un giorno per gli ebrei. Allora che lo scopo doveva essere un giorno per tutti e riacquisire la propria coscienza etica, visto che la Shoah è anche il frutto non solo di un'azione bellica, ma è il frutto di una politica, di una propaganda e di una partecipazione della società a questo genocidio. Quindi il giorno della memoria deve cambiare. Lei ha chiesto dove sono le scuole anche. Il giorno della memoria deve cambiare almeno nel suo processo. È molto positivo che ci siano tutte le autorità presenti e un po' di persone, ma se il giorno della memoria ha come scopo di trasmettere e di creare una coscienza, allora bisogna avere il pubblico giusto, che sono i giovani, le scuole. E dunque io ho chiesto dove sono le scuole. Trieste, Francesca Vigori, TGR, Friuli Venezia Giulia. Tra le persone presenti alla celebrazione in Risiera anche il presidente della comunità ebraica di Trieste, Alessandro Salonicchio, che anche lui fa un bilancio di quello che è diventata oggi la giornata della memoria. Di fronte all'antisemitismo di ritorno, dice, la ricorrenza mostra i limiti di una celebrazione di maniera. Sentiamo. Presidente Salonicchio, una cerimonia che al di là della sua fondamentale importanza assume un ruolo particolare oggi, nei momenti in cui c'è un rigurgito di antisemitismo. Sì, lo notiamo ormai negli ultimi anni, in particolare dopo il 7 ottobre. Il fenomeno dell'antisemitismo, nascosto dietro altri nominativi, in realtà è sempre un attacco al popolo ebraico e non crediamo che questo possa essere accettabile. Ci domandiamo anche se effettivamente la giornata della memoria non sia diventato un mero esercizio di ricordo quasi obbligatorio rispetto a quello che con ben altre intenzioni 26 anni fa, se non ricordo male, venne deciso quando venne istituita questa giornata. Forse è stato, non voglio pensare a un fallimento, ma sicuramente non sono state toccate le corde giuste, è una questione di senso di responsabilità e di corretta informazione e studio della storia che evidentemente non è stato correttamente passato a livello di messaggio. Elisabetta Zaccolo, TGR Friuli Venezia Giulia. Il rettore dell'Università di Udine, Angelo Montanaro, ha sollecitato a celebrare il giorno della memoria anche come un momento di approfondimento storico e scientifico, proponendo degli incontri aperti alla cittadinanza sull'Olocausto e sulla natura giuridica del genocidio. E una continua attenzione proprio all'aspetto storico e non soltanto alla ritualità viene sollecitato anche da Tristano Matta, vicepresidente dell'ILSREC. Una giornata di riflessione e memoria istituita un quarto di secolo fa che però non ha raggiunto tutti gli obiettivi. Lo storico Tristano Matta, vicepresidente dell'Istituto regionale sulla storia della resistenza e dell'età contemporanea, ammette che qualcosa, soprattutto nel corso degli anni, non ha funzionato. Dobbiamo constatare purtroppo, anche con una certa amarezza, che in questi ultimi anni l'intolleranza, il razzismo sono andati ad aumentare e a crescere soprattutto nei paesi che hanno implementato con maggior vigore le politiche della memoria. E se vogliamo che la nostra società freni questa crescente ondata xenofoba, dobbiamo riflettere su questa contraddizione. Io credo che adesso ci sia uno spazio maggiore di, come dire, sensibilità pubblica su questi temi, perché c'è questo incremento dell'intolleranza, c'è un incremento marcato dell'antisemitismo e c'è anche un incremento di quello che possiamo chiamare una specie di nuovo tipo di razzismo che è determinato dal timore dell'invasione dei migranti. La responsabilità di un giorno della memoria che non ha funzionato come avrebbe voluto per Matta sono di una storia insegnata troppo poco a scuola, ma non solo. C'è anche una colpa degli storici. Gli storici vivono un po' a un livello troppo alto e dovrebbero impegnarsi di più in una divulgazione seria. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. E Tristano Matta sarà questa sera a Butrio, a Villa di Topo Florio, alle 20:30, introdurrà il film Le Résistants du Tramfantone del 2016 di Georges Amat sui convogli di deportati da Tolosa a Dachau. E le iniziative in occasione della giornata della memoria proseguono anche in altre località. Al Teatro Giovanni da Udine, a Udine, questa sera in programma un concerto dell'Orchestra Sinfonica Regionale diretta da Paolo Paroni con brani di Mendelssohn, Prokofiev e Shostakovich. L'evento sarà preceduto da una testimonianza video di Sami Modiano, sopravvissuto alla Shoah. L'inizio è alle 20:30. Mentre a Pordenone, al Teatro Verdi, alcuni studenti parteciperanno alla lettura scenica dell'attore Alessandro Maione dal titolo Qui era, qui è, in cui raccontano le vicende di pordenonesi deportati e quali sono stati dedicati pietre d'inciampo della città alle 20. E a Sella Nevea, l'avete sentito dai titoli, una valanga si è staccata poco fa a quota circa 1900 metri tra il rifugio Gilberti e Bila Pech. Si tratta di un'area frequentata da chi pratica lo sci alpinismo. L'allarme al SORES alle 11:30 è stata subito mobilitata alla stazione del soccorso alpino e delle cave del Predil e la Guardia di Finanza con le unità cinofile da valanga. Si sono alzati in volo 3 elicotteri, due dell'elisoccorso e uno dotato di dispositivo di rilevazione delle persone che hanno raggiunto l'area, ma l'allarme era per 2 sciatori che però sono riusciti a liberarsi dalla morsa della neve e stanno scendendo a valle. L'allarme è quindi rientrato. Un uomo di 59 anni di Precenico, Gianfranco Milanese, morto ieri sera a Precenico, può essere stato investito sulla strada provinciale 56 nel tratto definito del Canedo, poco lontano da Pertegada, mentre stava camminando verso casa. È caduto intorno alle 18:30. L'urto è stato così violento che l'uomo è stato sbalzato di alcuni metri ed è finito nel canale Fossalona accanto alla strada, finendo sott'acqua. A chiamare i soccorsi sarebbe stato lo stesso investitore, un giovane di 20 anni, anni di Lignano. I primi a tentare la rianimazione dell'uomo sono stati i vigili del fuoco, sostituiti poi dai sanitari della Sores, ma non c'è stato nulla da fare, l'uomo era già morto. Sotto shock il ventenne che lo ha investito. La strada provinciale 56, seconda via di accesso a Lignano, non è illuminata. I rilievi dei carabinieri che hanno anche sequestrato l'automobile. Gianfranco Milanesi lavorava nell'edilizia, era esperto nella posa di marmi e piastrelle. Sul luogo dell'incidente sono subito arrivati i suoi due figli, uno dei quali gestisce un ristorante a Marano. Con una truffa telefonica hanno tentato di rubare 40.000 euro a un uomo di 68 anni. Tutto è iniziato questa mattina quando l'uomo ha ricevuto sul proprio telefono un messaggio con l'intestazione di un noto circuito bancario che lo informava di un'autorizzazione di pagamento dell'importo di 1.500 euro emesso dal suo conto con la richiesta di interpellare uno specifico numero di cellulare per il blocco. Contattando questo numero gli ha risposto un uomo qualificatosi come luogotenente dei carabinieri che insisteva sulla necessità di presentarsi in banca per effettuare dei bonifici. Poco dopo l'uomo, preso di mira dai truffatori, ha ricevuto una nuova telefonata che riconduceva sul display all'utenza fissa del comando provinciale dei carabinieri di Udine e il falso luogotenente dei carabinieri gli forniva le indicazioni per effettuare un bonifico di 40.000 euro. L'uomo, insospettito, si è rivolto ai carabinieri di Feletto Umberto che hanno attivato il blocco dei bonifici. Sono in corso le indagini per identificare i truffatori. Ieri a Trieste sono stati condotti alcuni controlli di polizia nelle scuole superiori con metal detector e cani antidroga. Gli agenti non hanno trovato niente, ma gli studenti ci hanno raccontato di aver subito minacce con il coltello già da quando erano alle medie. Siamo andati a sentire anche le reazioni dei dirigenti scolastici. Hanno chiesto magari soldi, mostrando magari coltellini o tirapugni e sono stati là finché non volevamo darglieli. Come vi siete difesi? Io sono andato via e non mi hanno fatto niente, però ad altri succede altro, può succedere altro. Mi è successo un giorno all'uscita di scuola, c'era sto qua un po' matto, tipo ero con dei miei amici, lo stavo un po' prendendo in giro, ad una certa mi tira fuori un taglierino, me lo punta così alla gola, io c'avevo tipo 11 anni e siamo scappati. Cosa volevano? Ma niente, solo fare un po' di casino, divertirsi. Hanno preso uno più piccolo e basta. Lo hanno picchiato? Ma no, un po' di schiaffi, ma niente del genere. Secondo me queste cose fanno anche crescere un po' la persona. Ognuno di questi ragazzi ha almeno un episodio di violenza da raccontare e lo fa con naturalezza, come se fosse normale. Il copione è sempre lo stesso, il branco accerchia la preda e poi iniziano le minacce verbali, a volte poi spunta anche il coltello. Penso che tutti quelli che usano le armi siano un po' dei deboli perché non sanno risolversela a mani nude, no? Ieri in tre scuole superiori di Trieste ci sono stati controlli di polizia disposti dalla prefettura. Al liceo artistico Nordio si sono presentati carabinieri con metal detector e unità cinofila della polizia locale. L'obiettivo era trovare stupefacenti, ma soprattutto coltelli o tirapugni alla luce dei casi recenti di cronaca. La vicepreside Marta Barrera. Sono abbastanza rutinarie queste azioni di controllo e i ragazzi l'hanno presa appunto come giusto che sia, nel senso che sanno che potrebbe esserci un controllo all'ingresso di questo tipo. Polizia e Guardia di Finanza si sono presentati invece al liceo scientifico Oberdan e poi alle porte dell'istituto professionale Sandrinelli e al tecnico Da Vinci. Anche qui non hanno trovato nulla, ma gli episodi di bullismo comunque non mancano. Come ci racconta la dirigente dell'istituto Da Vinci Carli Sandrinelli, Ariella Bertossi. Molto spesso sono le femmine, quelle più attrici importanti in questo tipo di questioni. Cioè le femmine bulle o bullizzate? No, bulle, sono diciamo, le chiamiamo bulle, insomma sono un po' dispettose, come dire, si dicono delle cose tremende che forse i maschi risolvono con un pugno, non lo so, ecco. Però le femmine in questo momento per noi sono un po' più impegnative. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il meteo, il cielo da poco nuvoloso a variabile, queste le temperature: Trieste 8 gradi, Gorizia, Udine, Pordenone 7, Tolmezzo 3, Forni di Sopra 2, Tarvisio 0, Piancavallo 2, Sappada -4, Sullussari -2, sullo Zoncolan -3, Grado e Lignano 8. tutto. Le previsioni per oggi: in serata da nuvoloso coperto, possibili piogge nella notte, mentre domani cielo coperto con piogge abbondanti intense, nevicate abbondanti in montagna. Soffierà vento da sud o sud-est da sostenuto a forte sulla costa e in quota. Il pluricampione ciclista Paolo Bettini coltiva una passione per il volo, ha conseguito un brevetto da pilota e coronato un sogno, ha volato per 40 minuti con le frecce tricolori. Paolo Bettini in volo con le frecce tricolori, esperienza da ricordare per uno dei ciclisti italiani più vincenti che ha avuto l'occasione di vivere in prima persona le sensazioni del volo acrobatico. L'ex ciclista livornese, che possiede il brevetto da pilota, ha volato con le frecce per 40 minuti sopra le Alpi Carniche e il mare, provando anche l'emozione di mettersi nei panni di un pilota. Il campione è stato ospite del gruppo addestramento acrobatico a Rivolto, dove ha partecipato a una missione addestrativa della pattuglia acrobatica nazionale. Specialista delle classiche, l'oro olimpico di Atene 2004 e campione del mondo di specialità nel 2006 e nel 2007, ha seguito l'intera routine operativa della PAN. Dalla riunione mattutina dedicata alla preparazione al volo, passando per la vestizione e la spiegazione delle procedure di sicurezza del velivolo. Accompagnato dal comandante della PAN, tenente colonnello Franco Paolo Marocco, Bettini ha volato in una formazione di 4 aerei impegnati nelle manovre del programma acrobatico. La PAN, pattuglia acrobatica nazionale, conosciuta in tutto il mondo come Frecce Tricolori, rappresenta la formazione acrobatica dell'aeronautica militare. Nata nel 1961 e basata all'aeroporto di Rivolto, è riconosciuta come una delle migliori pattuglie aeree internazionali. Barbara Ferluga, TGR, Friuli Venezia Giulia. E questo è tutto per il giornale radio, che è stato redatto e condotto da Dario Ronzoni e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Riccardo Stoic e Walter Vidonis. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Da tutti noi l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.